quello che torna mi dice di lavoro. Un attimo, stavo modulando. Ho capito, qua potete fare anche lo scambio, certo. No, ma se devi comprare, non comprare, io non te lo consiglio 48. 48 non te lo consiglio perché è pieno di splatter e cose varie. Va bene che tu lì sei praticamente solo, ma se si dovesse piazzare qualcuno o qualche un altro vicino a te, splatter a logo proprio, credo mai prenditi un superstar che sono apparecchiature che vanno benissimo. Ce ne sono da 170, 160, 170 euro in su, sino a 200, 220, ma con la differenza che ci sono superstar anche che ti danno anche 40 watt, sempre quello, naturalmente, se che vedi, fai una buona scelta. Avanti, chi era col break? Avanti, chi è che breccava? Non ti sentivo? Sì, chi sei? Bacchisio, sì. La radio è discreta, non è fortissima ma è discreta, il segnale non è certamente il tuo, Santiago 9, ma tu tieni presente che mi arrivi quasi 9+20 quando metti la radio, non quando metto il baracchino, quando metti la radio. Ah sì, con l'antennino, allora va bene, Santiago 9 con l'antennino va bene, no, non è un problema, Ovachi, va benissimo. Non lo senti a Claudio da Porto Torres? Ok, ma chi, d'accordo, vai, non c'è problema, sì, perché sto uscendo con un segnale basso oggi rispetto a stamattina, sì, va bene, avanti Claudio, era Bacchisio da Sassari che ha chiesto un controllo, che sta modulando dice dalla cantina con un antennino, con no, piccole radiali, ecco, tutto lì, avanti Claudio, l'hai sentito tu? Sì, per essere con un antennino, grazie. Sono risultativo appena appena. Almeno si fa qualche tipo. Adesso mi sa che mi attenti e si fa proprio. Ma fammi un po' perché. Poi rientro, Poi rientro. D'accordo Claudio, fai pure, non c'è problema, dai. Io già lascio acceso qua. Se puoi credi, puoi chiamare che già sono qua, ok? Avanti, chi è? Aspetta, giù. Ma cos'è che ha questa antenna, Lu? Questa sta andando male. Guarda se miglioro da così, aspetta. A così, miglioro così. No, peggiori casomai del segnale, da 9 scendi a 7. Ah, ecco. 7 e mezzo là per l'esattezza, 7 e mezzo per l'esattezza. E così? Così è 9, 9 spaccato e modulato 9,2. Ma... già sono buoni questi rosmetri, io ho il Diamond SX200, è buono come rosmetro. Sta segnando 2, 2, 2. Beh certo che sono buoni, io lo credo. Quelli sono strumenti buoni, sì, certo. L'SX200 è un ottimo strumento, certo. Va benissimo, alla grande. Ora ho trovato un sistema qua. Okay. Io ho il BV500, cioè, no, KV. Aspetta che non lo so nemmeno. Mi sembra che si chiama K520, una cosa del genere, KV520, fa tutto, fa anche gli HF, tutto fa. Oh. Ma quello è il Pluto, non è il Pluto quello il baracchino. Ok. Typhoon. Ah, il Typhoon, sì, è vero. E cazzo, ce l'hai un anno quello, eh? Ce l'hai 15 anni come Minu. Ma di anni, un bel. Ma è sempre andato bene però, la radio è sempre bella, abbastanza forte. Peccato l'antenna che non è in ordine, ma comunque c'è sempre tempo per sistemartela. Se no te ne puoi fare una, la Lucca, leggera, tranquilla, e te la piazzi a casa. E così non hai problemi di radiali e soprattutto di peso, perché la mantova pesa 4,5 kg. L'antenna così tipo quella canna pesca con 2,5 kg, ce n'è in abbondanza di peso. Giulio, scusa, mi sono spostato a me, c'erano 7. Okay, vabbè, che problemi ci sono. Non c'è problema. E a me bene mi senti, Luca? Sta arrivando, 9, aspetta. Sì, 9 più 20 qua, è più abbondante. Ok. Vabbè. Io ce l'ho l'antenna, il discorso è quello, vabbè dai, tu immaginati quando metterai l'antenna come si deve, allora sicuramente mi sentirai ancora più forte anche di segnale. Già sei forte adesso. Ok, vabbè, comunque, adesso sta andando a bassissima potenza, perché un problema ce l'ha. Un problema ce l'ha questa radio, ma comunque per il momento andiamo bene così. Ha problemi? Problemi del carrier, che non funziona, non funziona bene. E dunque devo utilizzarlo a bassissima potenza. Ma come mai? È un potenziometro che evidentemente è andato in avaria, la graffite che c'è all'interno. Sarà quello, suppongo che sia quello, poi si vedrà quando lo farò vedere, quando l'amico sarà disponibile, le telefonerò e vediamo un po' se me lo fa, e se non pazienza, rimane così com'è, fin quando dura, che cosa vuoi che dica? Perché spedire no, non lo spedisco, non ne vale la pena. Vabbè. No, a preferenza me ne prendo un altro. Ma non lo spedisco, capito? Anche se questo è un signore affaristico, però anche lui avrà pure una fine, no? Aspetta, volevo fare un'altra prova, giù, mettere il PL diretto, aspetta. Luca. Avanti. Per la cronaca Santiago 8 modulato qua, dai, fai sta prova. Ciao Giulio. Sono ancora in preparazione, dai. E Claudio è andato via, il portatore. Aspetta un attimo. Rientra subito Claudio il portatore. Ciao Marco. Rientra subito Claudio il portatore. Vediamo la prova che fa Luca. Qua il segnale, bene o male, il suo è intorno all'8, 7,5, 8. Sto usando Smitter a LED, però bene o male è come il 3009, dai. Guarda adesso, mi ha dato qualcosa, sempre uguale, 1, 2, 3, prova. Allora, fammi un passaggio modulato e non modulato, cioè, già hai capito. Allora, modulato, 1, 2, 3, prova. No, 7, sei Santiago 7, prima eri modulato fino a 8. Siamo a Roswell attaccato, Ascolta, ma la ricezione com'è? Ho sentito sul 23 che ricevevi più basso in proporzione. È corretto? Aspetta un attimino, aspetta. Vai Giulio. Ok. Sì, in effetti è così, più basso. Ma siamo lì, sempre a 9 siamo. Qui da me è 9, non sale di più. Vabbè. Aspetta che abbasso il PMR qua, che c'è Gio Maria, ecco, ho spento, addirittura. Sì, ma è così Marco, una cosa, dimmi prima di tutto se puoi rispondere o no. Tu hai cambiato radio a quei livelli, sì o no? Ah, capisco. Hai visto l'immagine del profilo? No, è presa da internet quella foto, Giulio. Ah, ecco, ho capito. Sì, ho visto il profilo dei WhatsApp, sì, sì. Però sai che uno di quelli a Ponzio Pilato non l'hai conosciuto, anche perché è morto ormai 10 anni fa. E gliel'avevo ordinato io allora, quel tipo di radio lì. Costava 2700, 750 o 720, costava. E ce l'avevo ordinato e l'avevo fatta arrivare io direttamente da me, tanto lui era tutti i giorni lì da me, Emanuele, anche perché tutti i giorni scendeva per accompagnare la nipote a scuola, che era lì al Sacro Cuore. Per cui le piaceva tanto, ma se ti piace tanto hai i soldi, perché non te lo compri? E si è convinto, e dammelo ordini tu, beh, te lo ordino io, molto ci vuole fare una telefonata, e lo fai arrivare qua, perché a casa io non ci sono mai, e lo facciamo arrivare qua. Infatti in pochi giorni è arrivato, 2720 o 750 costava il TS2000. Quella è una bella bestia, ti permette di fare tutto, però una cosa alla volta, cioè lì puoi stare o in HF o in V o in U o in 50 MHz, capito? Infatti certe volte c'è, per i più appassionati è meglio avere una radio per ogni banda, una per l'HF e relativa antenna, una per VU, vabbè i 50 li fa l'HF poi, capito Giulio? Bello, c'è tutto, però ho per i soli in una banda per volta. Registrato il break, sì, vabbè, tanto lui era CB, non le interessava, lo interessava solo ascoltare e basta, per cui, no, ma poi successivamente, dopo che gli era arrivato, siccome non era espanso per la 27, allora è venuto da me sempre e mi ha detto, guarda che questa radio non è, la 27 non, per la 27 non è aperta. Ho detto, beh, problemi ci sono, facciamo di nuovo un'altra telefonata. Beh, in un giorno solamente è arrivato la modifica come si doveva fare per aprirlo. Siccome lui di professione era radiotecnico, di conseguenza di questi problemi non ne aveva. C'era qualcosa da fare lì davanti, proprio nella mascherina, apriva lì e c'era da fare delle modifiche. Lui, dopo che mi hanno mandato il progetto, sono stati molto, ma molto veloci e molto gentili. Io gliel'ho consegnata a Emanuele, essendo del mestiere, ce l'ha fatto subito, l'ha aperto e usciva, che era una meraviglia, veramente. C'è stato un break avanti. Buonasera a tutti. Gianni Doppio Rum. Ciao Gianni, ben entrato. C'è Marco e poi sono in attesa che rientri anche Claudio da Porto Torres. E poi così, di tanto in tanto Luca, che sta facendo dei piccoli aggiustamenti, forse al PL o qualcosa del genere. Vai Gianni. Io acceso adesso, stavo facendo roba a casa, non stavo manco ascoltando la verità. Di solito accendo e ascolto, ma ero impegnato a fare alcune cose a casa. Si è imbarrata la cassettina dello scarico del bagno e praticamente c'era il coso. Ho chiamato l'idraulico per piazzarmela e non si trovava più quella attaccata al bagno, non si trovava più, ha dovuto cercare, andare, fare, e hanno fatto un poco di base che si può avaracci. Secondo il tipo della cassetta, chiaramente lo sai, lo fanno apposta, cambiano sempre i sistemi di produzione, per cui lo fanno apposta proprio per vendere. Interessante che tu hai risolto già, va bene così, praticamente è la batteria che ti si è guastata, penso che si chiami batteria quella dello scarico, dello sciacquone. Avanti Marco. Ciao già, ben entrato, ben sentito. Se leggevi il messaggio, praticamente apro l'armadio e mi ritrovo la static. mi sono clamorosamente dimenticato di portarlo quel giorno. E anche tu non te ne sei ricordato però già. Ma te ne immagini? Boh, vabbè, sarà per la prossima. E anch'io ci ho pensato dopo, Marco, ci ho pensato qua sotto la tua casa e vabbè, dai, non c'è problema. Cioè siamo qua, se Dio vuole. No, Giulio, non so se mi sono spiegato. Allora, io ho il water con la cassetta attaccata al water. E praticamente si è spaccata la cassetta, capito? Quindi l'ho dovuta sostituire. Se non trovavo la cassetta avrei dovuto sostituire water e cassetta. Per fortuna ne ha trovato una avanza di magazzino che non era proprio l'originale, però ci andava bene come buchi, capito? Gianni, non ha un controllo tu, ma ti sta arrivando 1, 2, 3, prova, guarda un po', 30, 40, 50. Aspetta, dammi un po' i buoni bici, che se stai sei troppo veloce, se no ti dico cagare. Prova 1, 2, 3, prova. Vai, metti gli occhiali, ok, dai. 9, 30. 9, 30, tu ce l'ho, se 9, 30, boh, non lo so, sta una volta a cosa. Perché? Cosa è successo? Ah, l'ho cambiato l'antenna, già, capito. Ma quale? Quella tua? Quella di casa? Quella la 23-25, ma sono la Storm. Ah? Va bene. Io ti ascolto abbastanza forte. Ma dove l'hai messo? Sul tetto? No, è atterrato, aspetta, mando la foto. Ehi. Li ho visto appiccarinati. Ho capito, Gianni, cosa intendevi. Hai dovuto cambiare la cassetta, sì. E beh, certo, ma la cassetta non è di quella del porcellana, come hai fatto a spaccarla? Allora, ti spiego, l'ho spaccata io. Non funzionava bene il tappo. Sono andato a sollevarla, mi è scivolata di mano ed è caduta dentro e ha spaccato la vaschetta. Caspita, bubu. Anch'io qui a casa ho quel tipo di vaschetta così attaccata sopra il water, sì, è vero. E vabbè, no, io in tutti questi anni ho cambiato solamente la batteria, cioè il congegno e basta, ma niente di particolare. Però la cassetta non va nuova, anche perché è un bagno abbastanza buono, per cui spero di non spaccarla anch'io, perché magari quel modello magari può darsi che non si trovi più, e avrò lo stesso problema che avevi tu adesso. Sicché hai cambiato solo la maschetta e il water è rimasto quello. Meglio così, qualche risparmio c'è almeno. Va bene, avanti Marco. Scusate, io sto per buttare praticamente gli gnocchi nell'acqua e vi devo lasciare. Guarda la foto, Giulio. È questo qui, questo che senti adesso. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, d'accordo Marco. Fai pure, dai. Non scuocerli però, Va bene che ormai non si scuocciano più. Quel tipo di pasta, perlomeno la barilla non si scuoce più. Stai prendendo a parlare i fornelli Marco, Gianni, Marco a quest'ora stai prendendo a parlare i fornelli e giustamente deve farlo perché è ovvio che sia così. Sì, Luca, se ci sei ancora, dimmi se ci sei intanto. No, è sparito, Luca ogni sta sempre saltando. Le volevo dire qualcosa riguardo l'antenna, invece è sparito. Comunque i miei pezzi sono Pozzi e Giroli, però sono di 30 anni fa e non si acciappano più baisci, non combaciano i buchi. Pensa che è venuto con una cassetta precisa, uguale identica alla mia. Addirittura se tu mettevi il coperchio ci stava, però non c'aveva i buchi sotto. Era di quelli da appendere al muro. Ho capito, sì. Vabbè, comunque la Giroli faceva dei bagni abbastanza belli. Oggi non so se esiste ancora quella casa lì, ma non ho più sentito da nessuno che parlare della Giroli. Sì, vediamo se è diventato Luca. Luca, ci sei, ti devo dire qualcosa a riguardo dell'antenna, per dove sei adesso. Me è Eugenio. Ciao Eugenio, sei prendendo, stai rientrando o stai andando? Attenzione, Eugenio il genio. Buonasera, non so come tu mi ascolti in quella zona. KK, dai, dai, dai, buon rientro, non è pranzata ancora. Sì, mettiti d'accordo con Marco, così pranzate insieme, sta facendo il pranzo Marco. Ho detto, mettiti d'accordo con Marco, che sta buttando gli gnocchi, sta facendo il pranzo anche lui. Si è sentato per buttare gli gnocchi, l'acqua della, degli gnocchi, dai. Andava, Giulio, riprendi. Ok. Oggi ti serve un'antenna? No, ho detto, se ti serve una Game Master, c'è un amico che la sta vendendo. No. No, se ti serve, fai un fischio se ti serve. Non lo so se tu la vuoi piazzare lì a Porto Torres, perché già lo sai a cosa sei legato, no? Ok, comunque se ti interessa un centone, nuova. Va bene. E poi cos'altro ti devo dire? Le canzoni stasera che ti avevo mandato, ascoltate se li hai. Ciao Eugenio, dai, buona carica quando la fai, avanti Giulio. Ok, ciao Eugenio, alle prossime, dai. Grazie per essere entrato a salutare. Fate sentire però. Sì, ma è così, già. No, c'è l'antenna che vuole, che cerca a Luca, nuova. Se lui è interessato alla Game Master, ecco che è pronta per farmi arrivare un sacco di soldi, già. Certo che sì. Ma è originale quella Game Master, non di quelle costruite da lui? No, originale, proprio sto parlando della Game Master originale. Che lui ce l'ha e la deve vendere, insomma, ecco. Tanto già lo sai, a lui non gli interessa perché se ne fa lui, però quello è originale, proprio l'originale, 100 euro per chi è interessato, lui la vende. Ehi, dai, non ho capito. E vabbè, io già ce l'ho. Per chi è interessato, si faccia avanti. Qui c'era anche Bombolo che la doveva piazzare, poi ci ha comprato, adesso ci ha comprato una... come si chiama, una boomerang, però di quelle, dice che alta 3 metri, io sapevo 2,75, invece dice che c'è la confezione, c'è scritto 3 metri, e dice che spara forte. Spara abbastanza forte che mi arriva Santiago 6 qua, ma cosa forte, non ha migliorato niente di niente rispetto a quella che aveva prima. Allora, cosa deve dire Gianni Rubrefetta, che abita lì vicino a me, nella stessa strada. Basta fare il confronto con Gianni e ha detto tutto, già. E infatti lui arriva forte con quell'antenna, infatti gli ho detto, non c'è bisogno manco di cambiare, arrivi da tutte le parti. Non l'ho più sentito, chissà che fine ha fatto, forse ha trovato lavoro e è impegnato. Ma stamattina l'ho sentito, è entrato per un attimo a salutare, l'ho sentito stamattina, arriva 9 più 5, è abbondante qua, anche 9,7, una cosa del genere, per cui va benissimo. Lui, tu adesso fai il confronto, stasera ho sentito Antonio con quell'antenna e Santiago 6, da 9,7 alla Santiago 6 c'è di differenza, modulando nella stessa strada. È a voglia. Ma essendo 3 metri dovrebbe essere performante come antenna. Solitamente quelle boomerang che sono direzionali, non sono magari nella direzione diversa. Anche quello vuol dire, Giulio. Dipende come la metti, che direzione la metti. Comunque. Ma la mattina perché entrando state giù? Intanto la mattina quando c'è qualcuno, 4 chiacchiere ce le facciamo. Però diciamo che siamo sempre molto ma molto limitati. Mi sono sentito con l'amico di Porto Torres stamattina, ha fatto anche un paio di passaggi Claudio di Sassari, abbiamo scambiato 2 chiacchiere, mi ha fatto molto piacere. E d'altronde, tu lo sai, io il tempo ce l'ho, sono qua, non esco per i motivi che tu sai, esco qua solo esclusivamente quando è strettamente necessario, come ieri ad esempio sono andato a prendere la paga, o meglio la pensione, ma poi sapete che dove vado? Tanto quando esco non posso avvicinarmi ad un amico, non posso entrare al bar a prendere un caffè, tu lo sai, con Antonello prima a tutte le mattine ci incontravamo, ma non per un giorno, per anni, andavamo a fare quattro passi anche, il caffè, eccetera. Ma oggi non si può avvicinare a nessuno, non puoi entrare in un bar, devi stare con la mascherina, sì che tanto vale, me ne rimango a casa e vado avanti così, almeno fin quando non passa questa storia del coronavirus. Intanto anche oggi mi sembra una sessantina in Sardegna di contagi, 20 mi sembra a Sassari, una cosa così, se vuoi immaginare, Sassari intendo provincia. Perché guarda, oggi quando è venuto l'idraulico io ci avevo la mascherina e lui non ne aveva, ho detto no, prima si mette la mascherina prima di entrare. Sì, la mascherina è vero, come ti si fa a lavorare con la mascherina? Lo so però. E lei sta entrando in casa mia e io ho la mascherina e lei non ce l'aveva, vero, non ho capito. È una questione intanto di rispetto, perché il rispetto non è solamente per me, ma è anche per te, perché io mi metto la mascherina e ti sto rispettando, tu ti metti la mascherina e così a tua volta rispetti me. E poi anche per prudenza, perché non si scherza, con questo virus non si scherza, Gianni, per cui però nonostante tutto ci sono tante persone incoscienti, anche oggi sul giornale mi sembra che ho letto quanti erano, non mi ricordo se erano 20 o se erano 40 addirittura, che sono stati contravvenzionati a 400 euro l'una, perché bisogna essere anche stupidi, no? Tu vai in giro per la città, ti trovano i vigili e ti fanno 400 euro di multa. Eppure ci sono, gli incoscienti ci sono, o meglio, gli imbecilli, per dirlo più chiaro e tondo, perché sono solo persone imbecilli quelle, perché facendo così questa storia non finisce mai. Io anche quando porto il cane me la indosso, anche se non è obbligo di indossarla negli spazi aperti, anche se non c'è gente, me la metto lo stesso. A chi non si sa mai se nell'aria chissà cosa, e chi lo sa dove si trova, non si sa. Quindi è sempre meglio prevenire che curare, no, diceva Issa. E te lo credo, a parte il fatto che è obbligatorio portare la mascherina anche all'aperto, perché anche oggi il sindaco l'ha detto. A proposito, c'è anche un assessore comunale di Sassari contagiato, oltre a Trump, e anche la moglie di Trump, colui che faceva lo sbuffone, che non voleva chiudere niente, adesso voglio vedere cosa che fa. E a quanto pare questo Trump sta anche male, molto male. Buffone, bagliaccio. Vabbè, comunque, cosa vuoi dire? La vita è sempre quella. La mamma degli imbecilli è sempre incinta, Gianni. E purtroppo sì. Perché io rispetto, magari proprio che rispetto, poi vado a prendermi il coronavirus da un altro, capito, che non ha rispettato le regole, è quello che a me dà fastidio. Io ci sto molto attento, ma non, per dire, in ascensore l'altro giorno ho incontrato una del palazzo ed era senza mascherina, e praticamente mi ha detto dai, stai salendo, ho detto no aspetto qua perché tu non c'è la mascherina. È esagerato, no, non sono esagerato, io sono, prevengo le cose, non per male, però così. Bisogna, a parte che hanno messo anche il cartello, legge anti-Covid, eccetera, eccetera, di salire uno alla volta, eccetera, eccetera, in ascensore. Ho pindacciato io. Ehi, a Marco, da quando si è comprato le maschere antigas, Marco, grazie, le sono stessi tutti i culori. Incredibile. Ehi, Marco, e cosa vuoi fare? È così. Purtroppo, ripeto, le persone incoscienti, perché per me quella è incoscienza pura, non è possibile. Io ho visto che anche ieri, lì, siccome alle poste si fa la fila, si fa adesso, che fanno entrare due o tre persone per volta, all'interno delle poste centrali ci sono gruppi di sedie, composte da tre sedie per ogni gruppo, per ogni banco, diciamo, dai. due sono annullate, una è occupabile, ne occupi solo quella, e fin quando non c'è una sedia libera non fanno entrare, tu entri nell'androne dall'ingresso, però sempre distanziati, la gente con la mascherina, tutti distanziati a meno un metro l'uno all'altro e anche di più. E poi all'ingresso c'è una persona, una dipendente delle poste, oppure un dipendente, che ti fanno entrare una o due o tre persone a secondo dei posti che si liberano, quelli occupabili che sono all'interno della sala. E perciò ci vuole un bel po' di tempo, deve fare una bella fila, la fila parte dalla strada addirittura, o Gianni. Io ieri quando sono arrivato ci saranno state non meno di 25 persone. Quando poi ho finito io, sono uscito e ce n'erano sicuramente molto più di 30, almeno 35 persone c'erano, che ti puoi immaginare, ed erano, ed eravamo di sera, perché io sono andato verso le 2:30, 3:15, visto che fa contro orario continuato con l'ufficio lì. Va bene, dai. Marco, bene, che ti giorni, come ti sono andati? Bene sono andati. Che cosa, Giulio? Cosa è andato bene? I gigioni, gli gnocchi. Ah, ecco, dai. Non sapevo il nome. Sì, sì, sì, bene, bene. Il sugo l'avrei voluto un po' più dolce, ma... porca miseria, sto mangiando, mi sono perso, volevo chiederti una cosa. O dirti una cosa, non me la ricordo. Porca miseria. Sempre attinente alle radio, vabbè. Gianni, riprendi tu, vai in mio soccorso, vai. Ehi, tu forse non hai sentito, ma poco fa è entrato Eugenio e stava rientrando, doveva ancora mangiare. Ho detto, perché non vai a casa di Marco? Mi sta mettendo i gigioni e ti ha detto di fare il sugo buono, che ti piacciono col sugo a lui. Che veniva a pranzo, sto arrivando. Ero in cucina, sentivo parlottare ma non capivo le parole, dai. Tanto stavo scolando la pasta, condendoci gli gnocchi. Dai, riprendete voi, tanto è inutile, sennò o fai una cosa o fai un'altra. No, di quelle maschere, già dicevo, vabbè, a parte quelle per collezione, io ne avevo molte, fattore 2, fattore 3, quelle fatte bene con valvola, senza valvola, e io praticamente, quando è arrivata il grosso di questo Covid, ci ho coperto non solo tutti i membri della famiglia, mia zia di Olmedo, mio zio, ma me ne sono rimaste pure, le avevo date anche a chi aveva bisogno, comprese quelle chirurgiche, ne avevo un carascio, cioè chi poteva aiutare l'ho aiutato, certo non facevo come quegli ebrei che se le vendono a 5 euro l'una con le mascherine chirurgiche, capito? O se non le altre, le fattore 3 ce le vendevano a 50 euro anche a 100 euro me le ho viste. Io l'ho pagata a 5,50 euro in farmacia, però sono di quelle che si lavano, non sono di quelle da buttare via. Tu le lavi, le puoi lavare 100 volte, quindi immaginati, le lavi e te le rimetti, solo che poi riferrafa, l'elastico si slabra e tutto quanto non conviene nemmeno, perché tanto si rovinano subito, l'elastico poi diventa tutto slabrato e non tiene bene. Sì, ti dirò di più, c'è quelle fattore 2 prese in farmacia, quelle chiamate K95 oppure N95, avevano l'elastico che era termosaldato alla mascherina, no? Un giorno vado a metterne una, come io non tiro molto gli elastici, faccio giusto giusto che passino dietro l'orecchio, tac, saltata la termosaldatura. Roba che se eri fuori e dovevi entrare in un market non ti avrebbero fatto entrare, cioè te la dovevi incollare, fare un foro, fargli passare l'elastico, casino, fatte proprio per rompersi prima possibile, soprattutto quelle che vengono dal mercato cinese, quelle K95 o N95, e poi in farmacia se le facevano pagare, periodo ancora emergenza o fine emergenza, 20, tipo 20 o 22 euro 5, 5 misere mascherine, che se tu le compri al di fuori dell'emergenza, cioè te le tiravano dietro, capito? Ci hanno speculato un po' tutti. È inutile che il farmacista mi venga a dire, ma anche noi le paghiamo di più, ci avranno guadagnato molto tutti, produttori, distributori e venditori al dettaglio, in questo caso i farmacisti. Vai Giulio. Noi ne abbiamo di due tipi, quelle chirurgiche e quelle colore, cosa sono? Celestine, mi sembra che sono o blu chiaro chiaro, vabbè, celestine, dai, diciamo, quelle chirurgiche e poi quelle proprio buone, FFP2 mi sembra che si chiamano, una cosa del genere, quelle pagate 4,50 euro l'una, ma ne abbiamo in tutto grosso modo 80-90 maschere, no? Così. Ma stiamo utilizzando quelle migliori, perché sono le migliori in assoluto. Quelle FFP mi sembra che si chiama 2, quelle sono le migliori in assoluto. Sono fatte bene, l'elastico è consistente, eccetera, eccetera. Però oltre a quello, quando io esco nel borsello ne ho altre mascherine, perché non si sa mai, ti si stacca un elastico, cosa fai? Caspita, prendi e te la cambi, io ce l'ho sempre al seguito quando esco, sia io, sia mia moglie, sia mia figlia, tutti ce l'abbiamo al seguito, le mascherine di riserva, non si può mai dire, si rompe ed ecco che te la cambi, facciamo così noi. Avanti Gianni. E poi se vi capita come è capitato a me, sono andato in farmacia, ho comprato di quelle buone. E le ho indossate e praticamente avevano gli elastici corti e mi stavano facendo le orecchie a parafango, non me la giù più busso. Quello deve portarti un biadesivo e così almeno le orecchie te le incolli alla nuca e non diventano a parafango, come dici tu. Bene, va così Marco, se si mette un biadesivo, così almeno le orecchie rimangono belle aderenti alla nuca. Io quando le vedo così a parafango, gli dico sempre, ma cosa c'hai, le orecchie sbottonate? orecchie di elefante. Vai Marco. Eia. Oh Giulio, per il discorso che hai fatto prima, nell'articolo della Nova, i ragazzi multati, no? Ragazzini pure, soprattutto. Ma io dico, non credi al virus? Va bene, c'è chi può ritenere che il virus non esista, secondo la mente loro, va bene, quello passi. Oppure sei proprio di quelli che vuole, come dire, che non vuole seguire regole, che ne so, per fare il figo con gli amici, con le amiche. Ma almeno, se non te lo vuoi mettere per i motivi tuoi, mettitela per evitare la multa. No? Mettitela per evitare la multa. E che a loro non gliene frega niente, perché tanto paga babbo. Hanno contattato i genitori, esce 400 euro, sempre che li paghino, se li pagano o il padre o la madre. Ecco, un bel regalo. Sì, la paghi, la multa si paga. No, ma ci sono adulti anche, che vanno senza la mascherina. Perché io ieri ero appunto lì facendo la fila ed ero all'esterno delle poste e tu vedevi via Brigata Sassari, le poste centrali, passavano tante persone senza la mascherina, ma persone adulte, non parlo dei ragazzi. I ragazzi, vabbè, lo sappiamo, sono incoscienti, ma che un adulto è ancora più incosciente, no? Quando fa una cosa del genere. Oltre al fatto che è maleducato, perché solo le persone maleducate si comportano in quel modo. Visto che c'è una regola, cerca di rispettarla, no? Ma non considerare poi le persone che si azzuffano anche da poco, mi sembra avanti ieri, in un supermercato senza fare il nome dove, si sono proprio, sono arrivati alla rissa perché magari uno gli ha fatto osservazione, il commesso o il cassiere che fosse, ha fatto osservazione a questo cliente e lì a un certo momento si sono tutti azzuffati. Ma ti sembra giusto a te che deve uno intervenire la polizia perché gli imbecilli non tengono la mascherina? Ma è assurdo, dai, non va bene così, assurdo proprio, è proprio da persone ignoranti al 100%. Vai Gianni. Sì, al momento che li trovano e poi li multano, se la prendono, ma non è tanto quello, il fatto è di ricevere. punto di rispetto verso gli altri anche, un po' di amor proprio per gli altri ci vuole, però c'è gente proprio che se ne sbatte di tutto, che non rispetta le vigi, che non gliene frega niente, randaggi, io diciamo randaggi. Guarda, ti dico io, quando è sabato scorso, sono andato lì alla Conad a fare la spesa per tutta la settimana, no? Alla Conad di su, di via Budapest o che via Ebo, vabbè, quella zona lì. E a un certo momento c'era questa donna al telefono senza la mascherina. C'era tanta di quella gente che tu non hai idea, a fare oltre mezz'ora di fila alla cassa per pagare, o Gianni, credimi. E poi c'è questa donna e gli ho detto, signora, per favore la mascherina. Ah sì, mi scusi, e se l'ha messa, stavo parlando al telefono e se n'è andata. Dopo 5 minuti è tornata indietro, guardi che io ho gli anticorpi, mi, sicché la mascherina posso anche mantenerla. E beh, cosa mi diceva, se li hai, che se ne frega se li ha gli anticorpi. Se li ha gli anticorpi, sono problemi suoi se ce li ha o non ce li ha. Però lei, siccome esiste una regola, si guardi attorno a tutte le persone, che ci sono qua, tutti quanti hanno la mascherina, e non vedo per quale motivo debba essere lei la trasgressiva. Questa deficiente di donna, prima è andata, magari ha terminato la telefonata, che ne so, e si era anche allontanata, non si vedeva più nei paraggi dove ero io, perché io ero appunto fermo alla casa. È tornata indietro lamentandosi che lei aveva gli anticorpi e dunque poteva stare anche senza la mascherina. No, lei è solamente maleducata, gli ho detto, sicché a questo punto veda un po' lì cosa vuole fare, capito? E glielo ripeto ancora, lei è doppiamente maleducata e se n'è andata. Per dirti, no Gianni, ci sono le persone adulte, questa era una donna grande, non era un bambino o una bambina, era una donna grande. Purtroppo è così, Gianni. Sì, anche se lei avesse gli anticorpi, ci può essere qualcuno che non ce li ha, che abbia qualche patologia e che abbia meno anticorpi di lei, sempre ammesso che lei ce li abbia a gogo, come dice lì, che è sempre da verificarsi. Ma ci può essere una persona che ha qualche patologia e quella persona così la contagia se ha qualcosa. Non è che deve pensare solo a lei, no? Appunto, ma io non sono stato a mandargliela a dire. Lei avrà pure gli anticorpi, però ha anche molta maleducazione. Per cui si regoli, perché lei è maleducata e basta. Tutto lì, quello lo vedo che ce l'ha lì. Poi se gli anticorpi ce li ha, sono problemi suoi. Se non ce li ha, sono sempre problemi suoi. Perciò è doppiamente maleducata. Gli hanno detto proprio queste esatte parole. Per cui vedo un po', si faccia un giro, un esame di coscienza e guardi un po' tutta la gente che c'è qua, che c'è, centinaia di persone c'erano, tutti con la mascherina, solo lei questa deficiente senza mascherina. Avanti Marco. Via. Poi vabbè, che sia fastidiosa, io già un po' c'ho il fiatone, no? L'ho sempre avuto, sta aumentando con l'età. E anche a me mi costa tenerla in certe situazioni, soprattutto in estate col caldo. È una tortura, però te l'ho detto, cioè piuttosto che pagare 400 euro, anch'io potrei non credere troppo a questa storia del virus, che sia stata ingrandita a dismisura, no? Poi è tutto molto relativo, tanto mentono sia le fonti di informazione sia la controparte, tutti mentono a priori. Te l'ho detto, per evitare la multa, cioè io piuttosto che pagare 400 euro me li spendo, che ne so, in baracchine magari, vai già. Pur di non regalarli 400 euro, ma li spendo in altre cose, mi andando a mangiare al ristorante, me ne vado a divertirmi, vabbè adesso non si può fare, ma diciamo qualsiasi altra cosa, mettere benzina, fare altre cose, non certo regalare allo Stato, per quale motivo, già ne vediamo di tasse e dobbiamo dare anche questi soldi. Ma poi vabbè, si tratta sempre di rispettare le regole, se tu sei un cittadino onesto, quando viene fuori una legge bisogna rispettarla, c'è poco da fare, non è che uno può fare ciò che vuole, cosa ti può posso dire? L'altro giorno sono andato all'ospedale per dire al policlinico, si è messo il cubicetto da Resi di Manzano per andare a fare questa lastra che me l'hanno assegnata dal CUP, me l'hanno assegnata al policlinico. Vabbè, vado lì e praticamente già ho parcheggiato la macchina, ho dovuto fare tutto il giro dall'esterno perché stanno facendo dei lavori. Sono arrivato lì, c'era la fila, è arrivata a me, mi ha detto cosa deve fare le lastre. E ha preso, mi ha misurato la temperatura, mi sono disinfettato le mani, sono entrato dentro e c'era l'accettazione, dice no ma noi lastre non le stiamo facendo, come non le state facendo? E no, ci sono i macchinari fermi perché stiamo traslocando al sottopiano i macchinari. Ma ho detto scusi, ma perché non mi avete avvisato? Io sono dalle 6 di mattina in piedi per fare tutto quanto, il cane lo dovevo portare, quindi prima di andare ho portato il cane, poi sono andato lì, capito? Beh, sono andato inutilmente, senza avvisarmi, senza nulla giù. Sì, ma lo so che ci sono tutti questi disguidi, purtroppo, cosa ci vuoi fare? Io lo stesso, adesso ho l'impegnativa per fare un'altra visita tramite il CUP, la prima che ho già telefonato già due volte, no, non ci sono le date, non c'hanno, l'ospedale dice non ci ha dato ancora la data quando iniziano queste visite qua, per cui no, non è che va bene. Adesso quando mi scoccio prendo e vado direttamente al reparto, vado e vediamo un po', perché sono sicuro che li stanno facendo. Per non considerare poi tutte le volte che vai lì, che lo stai deve fare l'autocertificazione, devi scrivere. Ti fanno compilare l'autocertificazione per entrare in ospedale, lì alla stecca bianca. Poi vai dentro, faccio la visita che devo fare e di questa autocertificazione non serve a niente perché nessuno te la chiede. Ma dico io, all'ingresso ci sono quei beduini che ci sono lì all'ingresso, ma quando si vede cosa deve fare? Devo fare questa visita, compilo il foglio, l'autocertificazione. Va bene, fuori ci sono i fogli, tu li scrivi. E dunque io vado sempre accompagnato ad esempio da mia figlia, perché c'è autocertificazione per me e autocertificazione per mia figlia. Poi arrivi dentro e nessuno te lo chiede, fai la visita, fai la terapia e nessuno ti chiede la cosa. Boh, cose dell'altro mondo, guarda. C'è una disorganizzazione che non finisce mai, veramente. Boh, comunque, cosa vuoi che ti dica, purtroppo è così. Avanti Marco. Sì, anche perché se tu devi fare una visita, questo sempre, no? Lì fuori anche dall'emergenza, no? E non vai alla visita, si incazzano pure, capito? Ti dicono che dovevi avvertire, che così non si fa, capito? Infatti dico sempre, se il giorno non posso andare, telefono e dico guardate se c'è qualcuno fatelo passare perché ho avuto un imprevisto, una cosa del genere. Stavo dicendo di cosa? Ah, quindi Bombo l'avrebbe preso una boomerang non caricata, quella un quarto d'onda effettiva, così è. Solo che in distanza non ha guadagnato più di tanto. Tipo a produttore lo ascoltava basso, mi pare, Giulio. Però quello che gli ho detto io, poi è scappato subito, è sparito subito e doveva andare a lavoro, no? Cioè, perché passare da un'antenna super caricata a un quarto d'onda? Poi non sei soddisfatto, lì bisogna mandare di 5 ottavi direttamente. Tu la pidea non avere a 5 ottavi, punto. Inutile prendere, avere il minimo, puoi fare quarto d'onda e non ti soddisfa. Passa la mezz'onda, non ti soddisfa. Passa a 5 ottavi e finalmente sei arrivato. E poi lui voleva antenne leggere, sarebbe andata non bene, ma benissimo la canna da pesca che fa Luca. Prezzo irrisorio, funzionamento garantito, larghezza di banda notevole, stazionarie nulle, leggerissima, la poteva mettere anche con un palo leggero e vabbè, si vedrà. Probabilmente lui aveva fretta di avere un'antenna un po' migliore, poi da me non fa testo perché è troppo vicino, cioè lui era tra 9.20 e 9.25, oggi era 9.25 tondo. In distanza vanno fatte le prove, sempre. Quant'era Pro Torres da Claudio di Pro Torres o Giulio, che non mi ricordo che segnale gli ha dato? Santiago Zero e la radio era solo un leggero bisbiglio e basta, niente di più. Allora arrivava, poi arrivava da me, Santiago 6, ti puoi immaginare, tu fai confronto con Gianni Rubrafetta che è sempre nella stessa strada, a 100 metri di distanza da dove lui, e quello arriva 97, 98, ti puoi immaginare, anche stamattina ci siamo sentiti con Gianni e arrivava con quel segnale lì. Fa il confronto con lo segnale di Antonio Bombo, arrivava bassissimo, basta un po' di QRM e non ti sento più. Già nel radio non era un granché, figurati poi segnare così basso, cosa serve? Hai comprato un'antenna che non è performante, non serve a niente, poi come l'ha piazzata non lo so, se vuole direzionata verso me non lo so, però io so solo che qua nel Baba Santiago sì, è scarso anche di volume del radio. Vai Gianni. Ehi, io non l'ho sentito, mi ha detto, vedrai che questa qua pompa voci. Io pensavo che avesse migliorato. Comunque, Giulio, non è normale che arrivi così basso da te, non è assolutamente normale, perché lui abita bene o male zona Lupofetta, però il Profetta che ha la stessa antenna a te arriva sicuramente molto molto meglio. Di solito quanto ti arriva il Profetta? C'hanno gli stessi watt, capito? Non è che... Certo, ma te l'ho detto, anzi, 9, 5, 9, 7 mi arriva l'Ubrofetta o Prefetta, dunque anche stamattina ci siamo sentiti, è entrato, poi con la radio straordinaria, bella, forte, non c'è problema, ma poi mi ricordo con Gianni abbiamo fatto anche dei VX, abbiamo fatto con quell'antenna, lui andava alla grande, andava, ma il segnale da 9,7 a Santiago 6 mi sembra che c'è una bellissima differenza, no? Il che significa che con l'antenna di Antonio non è per niente performante, perlomeno io poi cosa ho messo non lo so, però quanto mi arrivava prima con quella la torna o come accidente si chiama, con l'antenna lì, quella specie di bastone di scopa, e arrivava uguale con lo stesso segnale, sempre Santiago sì, sicché non ha migliorato proprio niente di niente qui da me, tutto lì. Avanti Gianni. Io adesso ho cambiato radio, non so se ve ne siete accorti, così le faccio girare un po' tutte. Sì, è così Giulio, il Profetta ha trovato un'antenna veramente performante, infatti sono ancora meravigliato di come esca quell'antenna. Qual è quella della Lerma? Era un radialino e basta, perché io l'ho vista anche ieri, io ieri ci sono passato davanti, ci sono passato quando rientravo dalle poste che sono andato a prendere la pensione, sono passato proprio lì, sono sceso dalla parte lì di Remici con le Baldi e dunque l'ho visto, sono levato la testa e l'antenna è sempre quella, c'è questa boomerang con un radialino, niente di più, ma arriva alla grande veramente, sì la casa è alta, ma in genere lì in Corsovico tutte le case sono più o meno alla stessa altezza, per cui non vedo come mai, non capisco come mai tutta questa differenza di segnale tra l'uno e l'altro, evidentemente con l'antenna lì, o alla radio che non esce, che adesso, avanti Marco. Pace bene a tutti. Miro Bredi è entrato. Ciao Gianfra. Cari figlioli, porta ora al canale 10. Finalmente si sente, diciamo, parlare ogni tanto. Pensavamo che non ci fosse più nessuno. No, c'è la gente, c'è, adesso esce. Con il freddo poi aumenta Gianfra perché non escono da casa, da poi questo fatto del coronavirus sta facendo strizzare un po' di gente, quindi si resta di più a casa e la compagnia ci vuole, dai. Qualche passatempo ci vuole per passare il tempo. Infatti comunque quella cosa sta aumentando, è veramente una seccatura, non si riesce a uscire. Riprendi Giulio, buonasera, buonasera Marco, buonasera Gianni, buonasera a tutti. Ok, ciao Gianfranco, buonasera anche a te. Ci siamo, almeno io ci sono tutta la sera, io ci sono da prima delle 5, forse le 4 e mezza anche erano, ci sono tutta la sera io qua. Vabbè, di tanto in tanto qualcuno entra, poi ho parlato a lungo con Claudio di Porto Torres, non so se adesso è all'ascolto, anzi adesso lo chiamo, vediamo un po' se rientra. Claudio, ci sei? No, si vede che è impegnato, eh? Non c'è. Sì, ma è così. Avanti Marco. Ma è nuovo questo club? Penso di sì, non lo so. Sì. È nuovo, sì, perlomeno. Io non ricordo questo nominativo, mi sembra che si chiama di nominativo Navarro, una cosa del genere, ho già. Non so se tu te lo ricordi, ma io sinceramente non me lo ricordo questo nominativo. No, almeno che sia quel ragazzo che modulava il padre, prima gli ha lasciato la stazione, che il padre non c'è più e gli ha lasciato la stazione, adesso non lo so se sia lui, non me lo ricordo come si chiamava, ce l'aveva anche in macchina il baracchino. Modula dal faro. No, è il contrario già, era il figlio radioamatore, è lui che adesso si sta approssimando anche lui alla radio, però mi stavo dicendo che è il figlio che è il radioamatore, lui evidentemente si sta approssimando adesso, non lo so. Perché io ho un amico che è guardiano del faro, lì si chiama Gianni, però non si chiama così. E ho un amico di Sassari che si chiama Gianni ed è praticamente quello che sta al faro. Oh, io ho detto modula dal faro, ma potrebbe essere zona faro, io non so il punto esatto. Zona faro. Sì, zona faro, è vero. Non so dirti di più. Avanti Gianfra. Sì. Comunque Giulio che stavo ascoltando da presto, solo che non sono entrato perché ero operando da un'altra parte e stavo un po' giocando perché ho cercato le batterie del ricevitore Dejan, non so se lo conoscesse effettivamente, adesso è una radiolina, perché è una radiolina emicidiale, è tremenda quella cosa. Ok, cosa volevo dire? Non me lo ricordo più, riprendi Marco. Sì, bianco per me, a dopo riprendi Gianni. Ehi, dai, ho capito. E vabbè, comunque questo qui della zona del faro non l'ho mai sentito. Come arriva a Sassari giù? Ma stamattina aveva a Santiago 9 modulati 9+2, stasera invece aveva un segnale più basso, Santiago 7, ma la radio è la ultima, no, non c'era problema. Io il segnale non gli ho voluto dire che stamattina era più forte, perché quello lo sa lui come stavo uscendo, per cui a me mi bastava sentirlo e lo sentivo benissimo, una bella radio, proprio bella, abbastanza forte anche. Avanti Gianfranco. Sì, è vicino a pochi caseggiate, diciamo, dal faro, c'ha due antenne, credo, se non ricordo male. Un'antenna, adesso non lo ricordo perché l'ho vista, perché ci va lo stesso a poco poco, quindi è in quella zona, tutto lì. E niente, comunque arriva sempre bene. Tra l'altro arriva bene a me che sono per Porto Torres un po' coperto, quindi lo sento senza problemi. Soprattutto il radio, una radio molto molto buona. Ti prendi Gianni. Sì, e beh, la radio è quella che conta, è più che il segnale. Per dire, io ho un baracchino che puoi uscire il zero di segnale, ma la radio è sempre forte, capito? È sempre forte perché vabbè, è modificato, per lui va bene. Eh beh certo, la radio è quello che conta, in effetti. Basta sentire, ad esempio, Franco California, quando modula da campagna, a me mi arriva Santiago 7, all'incirca una cosa così, ma la radio è a super bomba, bella, chiara, oltre al fatto che è fortissima, anche troppo forte, pensa un po'. Per cui il segnale lascia anche il tempo che trova, interessante che arrivi bene alla radio. Avanti Gianfranco. Sì, la cosa strana è che ci sono persone che arrivano benissimo, cioè strana, già spiegabile, ma sono persone che arrivano benissimo di radio, proprio non hanno radio forti, per radio tranquille arrivano splendidamente. Io anche stasera mi è presente sto usando un semplicissimo baracchino e quindi un apparecchietto quasi giocattolo. Eppure, benché sia un apparecchietto, non riesce a sentire certe stazioni, ma le aspetta tutte in una maniera micidiale e non capisco cosa dicono. Questa è la stessa cosa che succede con tutte le altre radio, voi lo sapete, ne ho tante, tra radio, ricevitori e tritte track, però sempre questo discorso, io non riesco a sentire molti che parlano in 27 perché